Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori del 24, buon martedì 27 dicembre. Per qualche giorno, un paio di settimanelle, attenti noi due solo con Oscar Giannino, perché Alessandro Mina, a cui mando gli abbracci a distanza, secondo me ha fatto bene con quello che era successo, ha preso i bimbi ed è li ha tenuti un pochino per Natale, fuori dal Natale in Italia. Secondo me ha fatto bene, e abbracci da tutta la nostra comunità, e sono sicuro anche da parte vostra. Allora, come state digerendo ancora? No, naturalmente no, tutti hanno imparato a stare leggeri si fa per dire, nei giorni di Natale, delle feste. Chi ha bambini piccoli come me sta leggero per forza, perché tanto con i bambini non si dorme, stanno sempre in piedi e hanno delle pile atomiche. Quindi ho fatto il Babbo Natale, mio Dio, speriamo che neanche le fotografie dei cari più stretti riescano mai a vincere la mia richiesta di essere assolutamente non messa in circolo, perché sennò ci manca solo Gianni vestito a Babbo Natale. Ma comunque andiamo subito al santo del giorno. Il santo del giorno oggi, il 27 dicembre, è un santo importantissimo. Perché? Perché San Giovanni l'Apostolo, l'Evangelista, vi dirò che quando sabato su domenica c'era la consueta predica laica di Scalfari, ormai lo sapete, convertito, il Papa scrive di Sacra Scrittura, che parlava dei quattro Vangeli sinottici, ho deciso che non lo leggo più sui temi cristiani, perché anche un bambino che fa catechismo sa che i Vangeli sinottici sono tre, e il quarto, quello non sinottico, cioè che non ha le stesse fonti nel racconto evangelico, è appunto quello di San Giovanni Evangelista, quello il cui inizio è fantastico e contemporaneamente mette in crisi tutti coloro che non sanno abbastanza, no? Perché quello che dice enarché enologos, all'inizio era il verbo, caiologos en prosteunzeon, dice, e il logos era presso Dio, e così via. Quindi è un Vangelo scritto con meno miracoli, meno racconti, che in parallelo nei tre sinottici si chiamano così, sulla vita di Cristo, sono simili, ma invece molto più denso di pensiero, ellenistico e di pensiero filosofico. San Giovanni era sotto la croce, dicono racconti della passione, con la Madonna, e a lui che, rivolgendosi a Cristo alla croce, dice: ecco tua madre. Infatti visse, secondo la tradizione, con Maria a Efeso, ed è il Vangelo anche più mariano da questo punto di vista. Quindi viva San Giovanni Apostolo, per così dire, e forse è meglio che Scalfari, prima di scrivere di Vangeli senza saperne l'ABC, ci pensi due volte. Cosa ricordare ancora di questi giorni? Il primo passo. Parto con non con dolore, per così dire, lo ricordate anche quello, un monito che sembra biblico: donna, partorirai con dolore. Invece no, nel 1845 in America, Giorgio, primo parto con anestesia. E quindi bene, possiamo dirlo che era una sciocchezza di quella di donna partirai con dolore. Nel 1963 oggi il Molise si stacca dagli Abruzzi. Ma perché, dico io, ma perché la proliferazione delle regioni, dei comuni piccoli? Comunque così è andata. E che altro ricordare? Ah sì, terrificante strage che i terroristi, come vedete ce n'è sempre una sul terrorismo medio orientale, ma in quel caso palestinese, nel 1985 l'attacco a Fiumicino ai termini della Elal, della TWA, 13 vittime fa il comando palestinese, 3 sono i terroristi che vengono uccisi. Tra i compleanni da ricordare oggi, prima di andare ai fatti invece sui giornali e agli argomenti di cui trattiamo, nel 1948 nasce Depardieu, a me sta simpatico nella sua follia, vi dirò, poi adesso è diventato filo Putin, cittadinanza russa, è una specie di smisurato personaggio rablesiano. Roberto Bettega e Giovanni Floris, il collega giornalista, conduttore televisivo. Allora, i temi dei giornali. Sui giornali diciamo ci sono due o tre grandi questioni. C'è chi continua a interrogarsi sulla trama terroristica e gli eventuali appoggi in Italia, non solo in Italia ma anche in Francia, del tunisino Amri, l'autore della strage di Berlino, che come sapete il venerdì prima di Natale è stato identificato da un controllo qui a Sesto San Giovanni e, avendo sparato, è stato ucciso dai due eroici poliziotti italiani. Per esempio il Messaggero titola: Amri fuggiva verso la Sicilia. Repubblica sceglie un'apertura diversa, sta sui temi del lavoro e di che cosa il governo Gentiloni deve fare per fronteggiare il referendum della CGIL. Quindi il titolo è: lavoro si cambia, meno voucher, multe a chi abusa. C'è una l'ipotesi che viene illustrata è quella di un'ipotesi per sventare almeno uno dei tre quesiti del referendum della CGIL che condizioneranno il calendario politico, perché come sapete il ministro Poletti, sollevando grandi polemiche, ha detto: bisogna andare a votare prima che la Corte Costituzionale ci obblighi a tenere il referendum nella prossima primavera sul lavoro. Sono tre i quesiti sul lavoro: uno sull'articolo 18 del Jobs Act modificato, e quindi per ritornare non solo a quello dello statuto dei lavoratori, ma addirittura per tutelare coi vecchi vincoli le imprese con più di 5 dipendenti, non di 15. Questo è il primo quesito. C'è un secondo sui voucher, un terzo sulla disciplina del lavoro nel contratto di appalto e subappalto. E appunto Repubblica oggi scrive come sui voucher la mossa del governo è quella di tentare di scongiurare il quesito con mettendo più vincoli e controlli, e quindi modificando in maniera molto profonda la disciplina che viene considerata foriera di questa esplosione dei voucher in un numero assolutamente incontrollato, quindi in maniera da ottenere un effetto non solo di far emergere lavoro nero, ma anche di crearne a propria volta. Il terzo tema molto importante, che trovate un po' su tutti i giornali, è quello relativo al Monte dei Paschi di Siena, perché nei giorni natalizi, sorpresa dalla vigilanza europea, l'aumento di capitale di mercato doveva essere di 5 miliardi, ma non essendo più di mercato, essendo un aumento precauzionale fatto dallo Stato, ecco che i criteri della vigilanza europea si alzano, diventano più restrittivi, e quindi l'aumento di capitale sarà di 8,8 miliardi e non di 5. Perché? Perché siccome l'aumento di mercato doveva essere fatto con un contestuale intervento di mercato per liberarsi di 27 miliardi e mezzo di crediti deteriorati lordi, mentre l'aumento precauzionale pubblico non ha questa contestualità, allora bisogna avere un criterio di maggior rigore. E infatti la vigilanza europea ha alzato all'8% gli attivi a rischi il conto necessario dell'aumento precauzionale pubblico, e quindi ecco gli 8,8 miliardi. C'è chi dice: ma questa è l'ennesima decisione europea molto discutibile, tra questi anche il Sole 24 Ore. Io invece non ritengo che sia un criterio di discutibilità, visto che in effetti l'intervento sui crediti deteriorati viene dopo, e ci sono precedenti per questa decisione europea, precedenti greci per essere chiari. Ma in ogni caso noi ci occuperemo di questo tema anche oggi, perché avremo tra i nostri ospiti più avanti Luigi De Mossi, l'avvocato parte civile in diversi processi che riguardano gli scandali MPS e che ha rappresentato alcune delle parti civili anche per il filone Anton Veneta, trasferito a Milano. Quindi io vi chiedo subito se avete qualche cosa da dirci in merito all'opinione che vi siete fatti sulle responsabilità politiche di questa storia incredibile che è andata avanti da anni, distruggendo decine di miliardi di valore, 18 miliardi di euro della banca, 10 miliardi di euro di depositi bruciati nel senso che ritirati e andati altrove da MPS solo nel 2016, il tutto continuando a dire, vi farò l'elenco delle dichiarazioni dei politici e dei banchieri del 2016 che dicevano tutto a posto, cari ragazzi, diteci come la pensate, quindi chiamateci all'800240024, perché nella seconda parte della trasmissione andiamo rapidamente a sentire come la pensate voi e proviamo a sentire attraverso il nostro ospite, l'avvocato De Mossi, qual è il polso della città di fronte a questo intervento pubblico, che si fa più complicato appunto, e sarà interessante vedere come poi i giornali italiani affronteranno meglio la questione nei prossimi giorni. Sui giornali code anche polemiche per le parole di ieri del vescovo di Sulmona ai funerali di Fabrizio De Lorenzo, vittima a Berlino del terrorista omicida Amri, del tunisino Amri. A me, devo dire, ha lasciato un po' perplesso un'omelia in cui il vescovo ha detto a Fabrizia come i tanti italiani che se ne vanno perché questa terra non ha niente da offrire. Sì, da una parte è vero, però consentitemi, cari ascoltatori, piantiamola anche un pochino di descrivere gli italiani, i giovani italiani che vogliono mettere a frutto il loro talento e hanno una visione oramai di un mondo aperto in cui si cresce, si viaggia e si vuole liberamente cogliere il meglio dell'opportunità del mondo, come se fossero tutti vecchi migranti di inizio Novecento stivati nel settimo ponte delle navi mercantili che andavano in America ai tempi dell'immigrazione di massa del sud italiano. È un fenomeno un po' diverso. Io, per carità di Dio, giusto sottolineare che abbiamo preso una sberla terrificante da cui non ci siamo ripresi in questi anni di crisi, che il reddito pro capite è caduto, che abbiamo purtroppo percentuali tragiche a doppia cifra di disoccupazione giovanile, di bassissima partecipazione al mercato giovanile dei giovani e delle donne. Però che qualunque giovane italiano, in quel caso questa 31enne di Sulmona, lavorava in un'impresa di trasporti, aveva trovato un'ottima, dicono, no, valorizzazione del suo talento, insomma, non è proprio il ritratto dell'emigrante in carenza alimentare che troviamo raffigurato nel libro Cuore, nel racconto degli Appennini alle Ande. Non trovate, però io capisco le parole amare del vescovo. E prima di andare al primo tema, che però sarà con un collegamento straordinario, la Siria, voglio sottolinearvi solo alcuni altri temi collaterali che riguardano la politica, che trovate nell'apertura di alcuni giornali. Per esempio, sul Fatto Quotidiano l'apertura è relativa alla vicenda dell'inchiesta Consip, per cui sono indagati il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e il sottosegretario, anzi no, il neoministro dello sport, perdonate, che ha la delega alla Consip, Luca Lotti. E il titolo che spara al Fatto Quotidiano in prima pagina, su una vicenda che gli altri giornali tendono a non seguire con la stessa enfasi, è: anche Renzi sapeva, tra virgolette. Perché? Perché si racconta della testimonianza di un amico che tira in ballo anche l'ex premier nello scandalo dell'inchiesta Consip, per la cui rivelazione e quindi per la cui violazione del segreto sono indagati appunto il comandante generale dell'arma e il ministro Lotti. E la testimonianza ai magistrati di Vannoni, che dice anche Renzi sapeva dell'indagine Consip. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda. Sapete che istituzionalmente si tende a considerare questa vicenda un po' fuffa, come dire, cioè, l'atteggiamento è di un distacco molto forte nei confronti invece del Fatto Quotidiano, che punta il dito con un fare accusatorio molto molto pesante. Il Giornale, volevo stonarvelo, è tra i maggiori quotidiani, forse il più polemico invece sulla vicenda delle banche. Il titolo è: banche non solo, il piano dell'Europa per farci fallire, addirittura. Quindi sarebbe, io invito solo i colleghi del Giornale a essere un po' più attenti, perché magari le colpe di MPS più che dell'Europa derivano da una presenza della politica troppo invadente nella gestione del credito. E nell'usare la parola invadente io mi trattengo, perché mi verrebbero delle parolacce che, rispetto alle quali è meglio che io non le pronunci. E poi un'altra apertura eccentrica tra virgolette rispetto ai temi che trovate nelle altre prime pagine è quella della Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che parla degli indecenti, i tre remogi del governo, fa anche sorridere. E chi sarebbero i tre indecenti? Sarebbero il ministro Lotti, appunto indagato, la Fedeli con la sua storia sulla laurea, Poletti che ha insultato i giovani italiani. Dovrebbero dimettersi, leggo il catenaccio sul titolo di prima pagina scritto da Belpietro, invece restano ministri approfittando della debolezza di Gentiloni. Ecco, ma se questi sono i temi del convulso post Natale italiano, andiamo invece a una tragedia incommensurabile, cioè quella della Siria. Ancora ieri Papa Bergoglio è intervenuto ricordando che a onor del vero e a dire la verità i martiri cristiani, lui parlava dei martiri cristiani e poi ha detto ma non solo, di questi anni in Medio Oriente sono incommensurabilmente più elevati dei martiri dei primi secoli del cristianesimo, e si riferiva ancora una volta, come già ha fatto a Natale, alla tragica vicenda in corso in Siria. Certo, si potrebbe dire che i colpi portati dal governo Assad, sostenuto dal governo russo di Putin, ai ribelli antigoverno da una parte e all'ISIS dall'altra, siano tali da e poter essere stati un passo avanti. Questo lasciamolo agli specialisti politici, perché più volte in queste trasmissioni noi abbiamo tentato di spiegarvi che non è così, vista la complessità della situazione sul campo. Ma la tragedia è quella del bilancio umanitario, dei milioni di profughi che hanno abbandonato la Siria da una parte, dei 500.000, 600.000 che sono periti durante la guerra, e delle centinaia di migliaia che in questi anni hanno tentato di resistere a vicende terrificanti come gli anni di guerra e distruzione ad Aleppo, alle condizioni delle famiglie, dei civili, dei bambini in quelle aree. Allora, noi abbiamo deciso stamane di parlarvi non tanto di come stanno le cose politicamente sul campo, ma di capire attraverso una straordinaria iniziativa umanitaria che cosa concretamente si può fare. E questa iniziativa è lanciata da una grande associazione del terzo settore, una delle più forti come per i suoi progetti di volontariato, l'ABSI. L'ABSI è presente in 30 paesi, perdonatemi, con 130 progetti, oltre 1000 persone impegnate nel mondo, 700 partner locali, dà sostegno a 26.000 ragazzi per il loro percorso scolastico, e c'ha centinaia di aziende e scuole nel nostro paese come donatori, e oltre 25.000 persone fisiche. Gli italiani, io alla fine vi ricorderò come fare per sostenere finanziariamente l'ABSI, e l'ABSI ha raccolto una richiesta, un appello che veniva direttamente dai cristiani impegnati sul campo in Siria, e cioè quello di tentare di tenere aperti il più possibile ospedali, visto che si muore di più per malattie e per ferite oramai in Siria di quanto non si muoia tragicamente sul campo per effetti delle bombe. E allora, proprio per spiegare questa iniziativa, abbiamo con noi, e io ne sono molto grato di questo, il nunzio apostolico in Siria, il cardinal Mario Zenari. Buongiorno Eminenza, grazie di essere con noi. Buongiorno. E il segretario generale dell'ABSI, Giampaolo Silvestri, grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, Eminenza, ci spiega innanzitutto come stanno le cose attualmente nella vostra esperienza lì? Dunque, come tutti sappiamo, un grande numero, parlano di più di metà di gli ospedali e cliniche, istituti ospedalieri sono stati messi fuori uso dai combattimenti di questi anni e di questi ultimi mesi. E di fronte al gran numero dei feriti, lei ha citato, qualcuno ne cita anche qualche centinaio in più, arrivano a dire più di un milione, e tra questi anche diversi mutilati, naturalmente, ecco, e il numero delle vittime si calcola ormai in circa 400.000 vittime morti, però altrettanto si dice, ed è stato accertato, altrettanto sono il numero dei feriti, ecco, di coloro che muoiono per mancanza di cure, per mancanza di medicine. E ci sono delle lunghe liste d'attesa alle porte dei pochi ospedali governativi. Ci sono anche degli ospedali privati. La Chiesa Cattolica è presente da oltre 100 anni con 4 ospedali cattolici, 3 ad Aleppo e 2 a Damasco. Naturalmente questi ospedali, essendo privati, ecco, la gente che si rivolge a questi ospedali non è coperta dall'assistenza mutualistica, e mantenere in esercizio questi ospedali costa moltissimo. Ecco, basta pensare alle spese per coprire il personale medico, paramedico, pensiamo alle spese che sono enormi in questi ultimi tempi dell'elettricità, del gasolio in questi mesi d'inverno. Quindi sono un po' paralizzati, ecco, nella loro efficienza questi ospedali privati, e parlo in particolare degli ospedali cattolici. Quindi, e poi se pensiamo che la gente ormai, stando alle statistiche di qualche mese fa, già l'80% vive in povertà, quindi non ha più come prima del conflitto la possibilità di contribuire con minimo, ecco, alle cure che richiedono a questi ospedali. E quindi allora di qui è nato l'urgenza di pensare a questo progetto chiamato Ospedali Aperti, per dare la possibilità a tutti quanti e soprattutto ai più poveri di poter accedere gratuitamente alle cure sanitarie. E questi ospedali sono a Damasco, ma sono anche ad Aleppo, cioè una delle città più martoriate. 3 di questi sono ad Aleppo, 2 dei quali, come dicevo prima, tra i 4, questi 2 dei quali sono operanti da più di 100 anni, e quindi sarebbe anche, direi, molto importante cercare di aiutarli con contributo finanziario, in modo che possano, ecco, avere queste porte aperte, soprattutto in questo clima, in questi mesi di emergenza, ecco, a questa povera gente. Insomma, come dicevo prima, la gente è sempre più povera. Noi in questi anni, proprio in questa trasmissione insieme a Alessandro Milan, diverse volte da Aleppo facevamo i collegamenti mattutini con padre Ibrahim. Lo abbiamo fatto anche in occasione della sua ultima presentazione del libro, l'ultima volta che è venuto in Italia. Ci può dire, Eminenza, ma in sintesi, la condizione dei cristiani per effetto di queste vicende sconvolgenti negli ultimi anni in Siria, cioè la comunità tra gente che è partita, che non ce l'ha fatta e così via, quanto si è ristretta? Dunque, in generale si deve dire che i cristiani sono nella stessa barca nella quale sono tutti i cittadini siriani. Ecco, tutti soffrono, tutte le comunità etnico-religiose hanno avuto i loro cosiddetti martiri, e anche i cristiani hanno avuto dei morti. Pensiamo anche ai rapiti, abbiamo 5 ecclesiastici rapiti da più di tre anni, i 2 metropoliti ortodossi di Aleppo, 2 giovani sacerdoti pure di Aleppo rapiti 3 anni e mezzo fa, abbiamo ancora il nostro padre italiano, padre Paolo Dall'Olio, gesuita. Sì. Ecco, e poi se parliamo invece del rischio, ecco, allora lì le comunità e i gruppi minoritari sono più a rischio degli altri, perché più indifesi, e tra questi gruppi minoritari ancora i più a rischio sono i cristiani, perché hanno scelto di non armarsi e di non difendersi. Ecco, questa è la situazione dei cristiani. Per quanto riguarda, ecco, il loro numero, si calcola che prima del conflitto fossero il 6, 3% circa, è difficile stabilire con esattezza le statistiche. Adesso credo che quasi quasi siano dimezzati nella sola Aleppo, ormai si dice che i 2/3 sono partiti da Aleppo, naturalmente non solo i cristiani, ma la gente che può scappa da questi luoghi di conflitto, ma a differenza dei musulmani che sono la maggioranza, ecco, il vuoto tra i cristiani si nota ancora di più. E parlando di Aleppo e parlando degli ospedali, di questo progetto ospedali aperti, vorrei richiamare al nord di Aleppo c'è un villaggio che si chiama Ciro, lì sono nati due fratelli medici martiri nel terzo secolo, i santi Cosma e Damiano, che sono patroni dei medici e avevano per norma di non chiedere di curare gratuitamente le persone. E c'è anche un particolare molto curioso: una volta uno dei due, non so se Cosma e Damiano, è tornato a casa con delle uova, suo fratello l'ha rimproverata, dice c'era una povera vedova, aveva il figlio ammalato, l'ho curato, è guarito e ha voluto assolutamente darmi delle uova. Ecco, il fratello dice: guarda, no, non dovevi accettare neanche questo, e le nostre cure sono gratuite, quando muoio non voglio essere seppellito accanto a te. Venne che furono martirizzati, e allora la gente si ricordava di uno di questi due che aveva detto non voglio essere seppellito accanto a te, non sapevano che cosa fare, se seppellirli assieme o separati l'uno dall'altro. Allora si dice, ecco una storia, che un cammello ha parlato e dice no, seppelliteli assieme, ecco per dire, ecco, quindi insomma, ecco, questo tema che è presente fin dalla storia, insomma, del resto il sostegno ai malati, a chi non ha, ai poveri, ai bambini. Noi stiamo parlando però, cari ascoltatori, stiamo parlando di 2 milioni di persone ferite o malate senza cure intorno ad Aleppo, di oltre 1 milione a Damasco, cioè stiamo parlando di numeri tragici, di un'emergenza vera. Io vi invito tutti davvero ad andare sul sito dell'AVSI, www.avsi.org, e troverete indicate le diverse campagne del mondo, ma anche questa campagna che è la più recente, ospedali aperti in Siria, per anche la donazione diretta in pagina, sulla pagina donazione del sito dell'AVSI. Invito davvero tutti, visto che facciamo un Natale coprendoci di regali e così via, pensiamo concretamente a quello che il personale straordinario dell'AVSI sta facendo, raccogliendo questo appello di cui ci ha parlato il Cardinale Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, per dare concretezza di sostegno ai bambini, ai malati senza cure in quella terra tragicamente scacchiere del delirio di potenza mondiale, dell'Islam diviso e combattuto tra potenze egemoniche sciite e sunnite, ex qaedisti, la Turchia, l'ISIS, la Russia, i wahhabiti, tutto quello che volete voi, ma vedere bimbi che muoiono a centinaia di migliaia, ha da parte vostra la possibilità di fare qualcosa. Donate all'AVSI, e noi, io ringrazio intanto Sua Eminenza Cardinale Zenari, noi andiamo in pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Ed eccoci qui tornati, sono le 8:41, cari ascoltatori in diretta, qui Oscar Giannino per un paio di settimanelle senza il nostro grandissimo Alessandro Milan. Volevo, prima di andare al tema senese, piluccare un pochino qua e là qualche altro tema che trovate sui giornali relativo alla politica. Per esempio sulla Stampa c'è il presidente del PD Orfini che inizia a capire che l'aria non è proprio quella così scontata di andare a votare al più presto, e quindi c'è un'intervista di una pagina, un'intervista a Carlo Bertini della Stampa: no all'accanimento terapeutico, si voti al massimo entro giugno. Accanimento terapeutico, il governo ha appena giurato, non sono stati nominati neanche i sottosegretari. E infatti sul tema proprio dei sottosegretari, perché c'è in trama e in ordito, lo sapete, nell'atto di nascere del governo Gentiloni, uno schiaffo dato a Verdini e alla pattuglia che invece sosteneva di ex berlusconiani ufficialmente il governo Renzi, Proprio per questo è un po' complicata la nomina dei sottosegretari, perché alcuni di loro appunto appartengono a questa pattuglia. Se non che poi la stampa ci aggiunge del pepe, perché l'articolo che Giuseppe Alberto Falci firma a pagina 9 del quotidiano diretto da Maurizio Molinari recita: Gentiloni commissaria Poletti e Verdini piazza due tecnici. Quindi il problema non è tanto Verdini, ma il fatto che Gentiloni, scocciato a dire la verità, scrive alla stampa, dei numeri di Poletti contro i giovani, sul fatto che bisognasse andare a votare, come dice Orfini, subito, lo commissaria. Cosa vuol dire commissariarlo? Vuol dire nominare sottosegretario al lavoro l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, economista di riconosciuto prestigio, davvero riconosciuto dal punto di vista bipartisan, sì renziano, ma autore di tutto il pacchetto sul lavoro, e di cui si era parlato anche come di un possibile ministro nel governo Gentiloni, che diventerebbe a questo punto sottosegretario forte, per così dire. Tutti capirebbero che il vero ministro è lui, insomma, Tommaso Nannicini e non Poletti, che l'ha fatta più volte fuori dal vaso. Sempre sulla stampa, a proposito del post Roma, sapete che la sindaca Raggi si è commossa due volte, insomma si è praticamente quasi messa a piangere alla messa natalizia della Caritas, parlando di un momento molto delicato, e in effetti sì, lo è, visti i loro ritardi e i loro errori a Roma, e il boomerang, che ovviamente è un favore reso ai partiti responsabili del disastro di Roma. Però la stampa scrive una pagina intera dicendo: la sinistra è diventata borghese, siamo pronti a rivoltare la Raggi. È un viaggio di Andrea Malaguti della stampa a Tor Bella Monaca, feudo pentastellato romano della periferia, peggio dei soliti partiti non si può fare. Quindi, come dire, un tentativo di spiegazione sul campo del perché in realtà sì, è vero, dopo i guai, disastri, ritardi, gli errori intorno alla composizione dello staff e della giunta di Roma, i 5 Stelle perdono dei voti, ma non così tanto come si potrebbe credere. Gli altri partiti rosicano, ma perché dietro c'è un sostegno della base popolare romana che dice: sì, ma tanto non è che noi ci siamo dimenticati dei responsabili del passato. A questo punto sentiamo come la pensa qualche ascoltatore intorno a MPS e poi andiamo all'avvocato De Mossi. Io voglio ricordarvi, a proposito di MPS, che cosa alcuni personaggi di spicco hanno detto nel corso del 2016, visto che la colpa alcuni dicono che è dei tedeschi o dell'Europa. Ecco, Matteo Renzi, gennaio 2016: Monte dei Paschi oggi è a prezzi incredibili. Penso che la soluzione migliore sarà quella che il mercato deciderà. Mi piacerebbe fosse italiana, ma chiunque verrà farà un ottimo affare. Investite in MPS, Matteo Renzi. Questo, il presidente di MPS dell'epoca, Tononi: non abbiamo alcuna intenzione di muoverci verso un aumento di capitale, nessuno ci ha chiesto di farlo, i coefficienti sono ampiamente al di sopra delle soglie richieste, questa banca non ha bisogno di aumento né oggi né dopo i risultati di stress test. Questo era il presidente dell'epoca. Marzo, il direttore generale del Tesoro, Vincenzo Lavia, dice: per il futuro di MPS la nostra strategia è di creare le condizioni perché ci sia una soluzione di mercato, serve un buon ammendamento dell'economia che si riduca l'incertezza dopo l'elevata volatilità dei mercati delle scorse settimane. Adesso ci vuole il tempo necessario perché la polvere si depositi. Si parla solo di polvere, non di guai insuperabili. Il presidente della banca, ancora ad aprile, Tononi, dice: MPS è una banca serissima, siamo mica una banca da barzelletta, il nostro è un bilancio veritiero, io me ne assumo tutta la responsabilità, eccetera eccetera eccetera. Chi ci dipinge come una banca che perde clienti vuole raccontarci come una banca alla barzelletta. Avete perso 10 miliardi di euro nel 2016, non è mica colpa dei soliti giornalisti cattivi come Giannino, caro ex presidente Tononi, peraltro mandato via dal governo. Sentiamo cosa dice a luglio Piercarlo Padoan: il sistema bancario italiano non ha bisogno di un intervento diretto dello Stato, ma è perfettamente in grado di implementare soluzioni di mercato sostenibili ed efficaci. Matteo Renzi a luglio: i correntisti MPS, ma che dormano sonni tranquilli, è una questione che risale a una gestione discutibile ma del passato, ora correntisti, clienti, dormano tutti tranquilli, magari qualche banchiere un po' meno, ah sì, i clienti devono dormire tranquilli, gli obbligazionisti, si è visto. Questo era luglio, non stiamo parlando del 2012, cari amici. Settembre, Piercarlo Padoan, il ministro: l'aumento di MPS sarà un successo, non ci sarà alcun piano B. Padova, in ottobre, non vedo la necessità né di nazionalizzare né di alimentare idee strane che suscitano posizioni perentorie. Ottobre! Stiamo parlando di 7 settimane fa! Novembre, Matteo Renzi, penso tuttora e credo che ci sia un investitore italiano o straniero che voglia investire nella banca. Sarà un affare per lui e io non sono preoccupato. Novembre, cari ascoltatori. Piercarlo Padova, novembre, il piano funziona. È chiaro che funziona. Sì, siamo in una fase di incertezza, ma i mercati hanno già dato un prezzo all'incertezza e hanno dato segnali meno preoccupanti di quanto possa sembrare. Novembre, l'altro ieri. Io la pianto qua perché così la finite di dire che è colpa dei giornalisti. Come la pensa il nostro Federico, per esempio, su MPS? Federico, prego. Buongiorno Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sì. Beh, io penso, come diceva lei anche nelle scorse puntate, che la politica purtroppo in questo, chiamiamolo danno, un danno diciamo non solo al sistema bancario ma al sistema fiduciario dei clienti nei confronti delle banche, soprattutto quelli che si definiscono retail, è veramente enorme, è veramente. La cosa che però ritengo veramente assurda leggendo i giornali di questa mattina è la seguente. E mi chiedo, com'è possibile che chi era preposto a fare, tra virgolette, i conti su quanto doveva essere l'aumento di capitale di MPS, quindi mi riferisco a 5 miliardi di euro, non abbia capito che le regole imponevano invece un aumento decisamente più alto, perché parliamo di quasi il doppio. E qui non stiamo parlando di un errore al ristorante di 5 miliardi. No, direi di no. È perché Federico, però l'interpretazione, ecco, te la do subito, che l'interpretazione è quella sempre della mai di tenere in considerazione tutti i precedenti della BCE, e tanto l'arte è quella sempre di dire che il regolatore europeo non ci capisce e ce l'ha con noi. Hai ragione, perché in effetti, ripeto, quell'ammontare era per l'aumento di capitale solo di mercato voluto, con contestuale cessione di 27 miliardi di euro e mezzo di NPL lordi, come ho già spiegato. Questo no, e quindi la valutazione degli asset a rischio, del totale degli asset a rischio, è più elevata. Ci sono i precedenti della decisione europea, e quindi lo stesso Tesoro doveva essere il primo italiano a dire effettivamente non saranno 5, vedremo quanti in più, ma alcuni in più. E infatti 8,8 miliardi la richiesta. Come la pensa Maria Simonetta da Milano invece? Maria Simonetta. Buongiorno. Io penso che la banca dovrebbe essere lasciata fallire. Ah. Questo, sì, questo le situazioni lei le ha descritte in maniera puntuale. Il perché? Innanzitutto perché una mela marcia deve essere allontanata dalle altre mele sane. Questo come concetto di tipo filosofico. Vediamo però come potremmo realizzare, come potremmo portare avanti questo fallimento. Nel fallimento ci saranno, nella massa attiva, anche dei debiti deteriorati, i quali è vero che non hanno valore, però magari un piccolo valore ce l'hanno. No, certo, mi riferisco in modo particolare, che so, ai mutui non pagati. Cioè, mutui con garanzie immobiliari. Esatto, no, ma Maria Simonetta non ci deve spiegare come funzionano le procedure di liquidazione coatta quando si va in fallimento. È ovvio che col tempo si recupera e così via. Detto questo, Maria Simonetta, il suo è un problema di principio. Io appartengo alla sua stessa minoritaria congrega. Io penso, per esempio, mentre tutti in America dicono l'America ha intervenuto immediatamente finanziando le banche, poi rivendendo e facendo i soldi. Sì, ma ne ha fatte fallire anche, chiudere e sparire più di 600 di banche minori. Solo che questo si dimenticano sempre di dirvelo, cari ascoltatori. Quindi l'idea che quando ci sono crisi del sistema bancario, il fallimento di aziende bancarie, sì, il fallimento di aziende bancarie, quindi la liquidazione coatta poi è il recupero per dare ai creditori, nell'ordine della loro gerarchia di recupero, quello che si fa liquidando gli asset residui della banca, abbia una funzione anche terapeutica, sì, io lo penso. Mentre questo è un paese in cui vi dice che l'ultima anche banchetta delle nostre centinaia va difesa come se fosse Fort Alamo, va difesa con le sue collusioni, con la sua credito relazionale, con i crediti degli amici degli amici, che sono l'ABC di questo sistema bancario. Sono in minoranza, lo so, anche nel gruppo editoriale Sole 24 Ore, me ne assumo la responsabilità. Da anni però la penso così. Però da anni, cari colleghi, i fatti sono andati come dicevamo noi minoritari. Non perché avete avuto buone ragioni dai regolatori italiani per dire ai clienti, per dire ai risparmiatori o agli obbligazionisti che potevano stare sereni, perché invece non sono stati sereni, perché i rompiscatole come noi non sono stati ascoltati, e come Maria Simonetta, la nostra ascoltatrice, a cui plaudo. Sentiamo come la sta prendendo Siena da un particolare osservatorio, perché è con noi l'avvocato Luigi De Mossi. L'avvocato Luigi De Mossi da anni, per la sua professione, porta in tribunale in diversi procedimenti che riguardano responsabilità di MPS come parti civili i clienti di MPS, tentando di ristorare e di limitare i loro danni. Quindi ha un osservatorio particolare. Ma come la città sta vivendo questo intervento dello Stato, avvocato? Ma guardi, la città è totalmente smarrita rispetto a questa situazione. È chiaro che l'intervento dello Stato per il cittadino senese è qualcosa che ha fatto tirare un sospiro sollievo, però è un principio che non mi trova d'accordo. Io non credo che siano i modi sani per risolvere i problemi bancari. Qui ci vuole un metodo, uno solo, che deve essere uniforme per tutta l'Europa, non solo per l'Italia. Il Monte, per motivi politici, è stato trattato in maniera diversa rispetto, per esempio, anche dalla Banca Popolare dell'Etruria. Ricordiamolo, perché gli obbligazionisti dell'Etruria, rispetto a quello che sembra vedersi a una prima lettura del decreto, vediamo il decreto ministeriale, ma del decreto prenatalizio del governo, sono trattati in maniera molto diversa. Perché, secondo lei? Perché il Monte dei Paschi è stato gestito, che piaccia o no, dalla politica in maniera significativa e importante. E credo che la verità che noi potremmo avere, che non sarà, te lo dico anche a discapito purtroppo del mio lavoro, non sarà mai una verità processuale, sarà semmai una verità storica, quando le polveri saranno ricadute e quando non ci saranno più rischi per tutte le persone che hanno preso mano. Quindi il Monte dei Paschi è stato una gigantesca operazione principalmente politica. Va bene, questa è la sensazione che io ho, ma che è più di una sensazione. E in questo senso il motivo del salvataggio del Monte dei Paschi è legato alla grandezza dell'istituto, che ormai è ridotta ovviamente in maniera significativa, ma anche per cercare di spostare da un piano giuridico a un piano storico, quindi quando sarà il momento, cioè fra qualche decina d'anni, le responsabilità evidenti che la politica ha avuto nella gestione manageriale di questa banca. Però avvocato, i primi che rilasciano commenti da mesi, eccetera, eccetera, come se fossero gli spettatori estranei rispetto a queste vicende, di cui lei richiama invece la forte matrice politica, la forte pesantissima responsabilità per anni, per decenni, ma comunque nei fatti tragici, diciamo così, da post 2008, dall'acquisto a quei prezzi folli di Anton Bennett da parte di Siena in poi, da parte della politica. Eppure, se uno va a vedere le dichiarazioni rilasciate per esempio dal presidente della regione toscana Rossi, o da esponenti del PD toscano, sono praticamente critici verso i manager, come se la politica non l'avesse mai tenuta in mano quella banca. Guardi, il meccanismo manageriale di Siena è stato un meccanismo che il manuale Cencelli impallidiva al confronto con i meccanismi di scelta e di nomina del presidente, del direttore generale, allora ora dell'amministratore delegato. In questo senso credo che quello che possono dire oggi i politici, va bene, è soltanto una coperta sempre molto corta di responsabilità ben precise che ha avuto sempre la politica su questa banca. Il problema Monte dei Paschi è che non è stato gestito in maniera industriale ma politica. Questo è il dato che emerge in maniera estremamente chiara da come si sono sviluppati i fatti. Una delle banche più solide d'Europa, forse la più solida, una volta che è entrata la politica dalla porta principale e in maniera non equilibrata, perché la democrazia, perché lei sa bene che i due principi fondamentali in materia di politica economica e bancaria sono l'equilibrio e la tutela del risparmio. Lei mi dica se l'equilibrio in termini gestionali e la tutela del risparmio si sono verificati all'interno della Banca Monte dei Paschi. Io credo di dover convenire con l'avvocato De Mossi, che è palese, patente, che non è stato così. A dirvi la verità, vi ho letto solo alcune delle dichiarazioni di manager, esponenti del Tesoro, della struttura tecnica del Tesoro, esponenti politici del governo e del Presidente del Consiglio, in cui fino a poche settimane fa si dicevano cose che, come vedete nell'andamento dei fatti, non hanno alcun riscontro. Quindi nei fatti parliamo chiaramente. Aveva ragione che diceva: state portando a sbattere la banca e parte del sistema bancario italiano. Invito tutti a leggere su questo l'editoriale della Stampa firmato da Alberto Mingardi, in cui mi riconosco parola per parola. Intanto grazie dell'ascolto e tenete botta, perché per 2 settimane sarò solo senza Lino Milan, ma intanto appuntamento a domani per chi vuole anche oggi pomeriggio alle 4:30 con la versione di Oscar più tardi. Ma state su Radio 24.